stai ascoltando. Techno. Ballano i bambini. A parte la gioia che proverete vedendo quello spettacolo, guardandoli vi verrà naturale fare una riflessione. Siamo noi ad essere piccoli quando entriamo in un centro commerciale e pensiamo di scegliere un prodotto, quando invece è straevidente che hanno già scelto loro per noi. We'll be right back. L'elettro show di Gigi D'Agostino e Luca Noyz dal vivo sabato 4 marzo 2006 ore 22:30 discoteca MEP via Latiro 21 località Sestri Levante Genova. Movimenti incoerenti. Movimenti incoerenti. State attenti. No explanation for the state that I'm in. People keep telling me the search is within it. Got so much anger, but it won't come out. My every action has been crippled with doubt. I wanna feel again connection with truth. Have all the wisdom but the verve of my youth. When I get like this, only one place to go. If there's an answer, then I know you will know. Love savant, love savant. It never fails, you always know what I want. Love savant, love savant. You always do the things that turn me on. And I remember when you cured my blues. And me behaving like the shit was old news. Yeah, only you can really switch my moods. My mind is open and my body is new. Remember when you remedied my soul. You made me happy to relinquish control. But baby, here I am, like I was back then. I guess I'm hoping you can do it again. Love savant, love savant. It never fails, you always know what I want. Love savant, love savant. You always do the things that turn me on. Non subire un qualcosa, devo essere sicuro di aver scelto liberamente. Devo essere sicuro di aver appagato me o il mio amore verso una persona e non il giudizio altrui. Nice people. Pubblicità, taratata, pubblicità, taratata, pubblicità, taratata, pubblicità, taratata. Demoni del tuning, unitevi. Speed sta per partire dai box di M2O. Ascolta il suono dei motori tirati al massimo. Esci dall'anonimato, esamina i dettagli. Avrai la coppa dell'odio disegnata dal vento. Ti abbasserò di mezzo pollice e ti darò la forma di un proiettile. Speed, ogni sabato alle 7 di sera su M2O. Speed, la strada ti sta aspettando. E sarai pronto per entrare in pista. Musica allo stato puro. È di nuovo su CD. 15 tracce mixate. Tracce CD-ROM. Con l'archivio delle sigle e le schede dei DJ di M2O. In più, il nuovo cortometraggio musicale M2O Eleven. Put your hands up. Mixa and selector number one by Provenzano DJ. The dance movement number one. La compilation di M2O è nei negozi di dischi e nelle edicole con il nuovo numero di pianeta M2O a 9,90€. DJ presenta PES League, il campionato di Pro Evolution Soccer, il videogioco di calcio in cui il campione sei tu. Dimostra di essere il migliore. Corri, costruisci l'azione e segna. PES League, partecipa al campionato italiano. Vinci! E vai al PES European Championship e all'Electronic Sports World Cup. PES League, il campionato di Pro Evolution Soccer. Domenica 5 marzo, Eppe, Excalibur, Casalecchio, Bologna. Eppe, Excalibur. Info PESLeague.it o PES5.it. M2O. Musica allo stato puro. Energia. Non vado più via. Lento, violento, violento, violento, violento, violento, violento. Il cammino di Gigi D'Agostino. Spettacolo, frate. Agostino. D'Agostino. È molto meglio il cammino su un sentiero di lino che una qualunque passeggiata in mezzo a una carreggiata. Stai ascoltando The Final Countdown, il folclorista. Il brano che vuoi ascoltare durante il cammino di Gigi D'Agostino. D'ora in poi ascolta ciò che vuoi dal tuo salotto ogni giorno alle 18, però M2O. Per votare basta cliccare www.gigidagostino.com. Pom pom porom porom pom. Ti si apre la paginetta e scegli la canzonetta. A fianco al titolo troverai un pallino e lì dentro metterai il votino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Chi vota poco resta nel PC. Il sondaggino di Gigi D'Agostino. Ma che sta a fare? Ma che stiamo a giocare qua? Gigi d'Agostino. Gigi d'Agostino. Dagli un po'. Dai un po', dai un po', dai un po', dai un po'. Stai comodo in salotto, perché io suono alle 18. La radio è questa qui. Da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico, fatico. Ginnastica mentale. passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Lento, violento, lento, violento, lento, violento. Questo disco qua che stai ascoltando è... Non giochiamo. Dottor Doug. Non giochiamo. Allineo con le opinioni circolanti. Quindi non decido se emozionarmi o meno. Bella Gigio. Ma che è? Don't cry tonight. Gigi D'Agostino. Cosa? Siento que está transbordando. Siento que está transbordando. Siento Luca Nois. Está transbordando. Siento tu voz que me está transbordando. Necesito una luna de la operación. Il cammino di Gigi D'Agostino. energie. Official Carnival Party at Rolling Stone, Milano. Le mani, le mani, le mani, le mani, le mani. Paolo Bolognesi, Emanuele Inglese, Lewis, Emix, M2. Cueo Diabolica. Giovedì 2 marzo, Official Carnival Party at Rolling Stone, Milano, e in FM, in diretta a mezzanotte su M2O. Diabolica l'urlo! M2O, musica allo stato puro. E di nuovo su CD. Con la rivista poster Pianeta M2O. A 9,90€. Melissa. 15 tracce mixate. Traccia CD-ROM. E il nuovo video M2O Eleven. Il furto del codice. Se l'amore vincerà. La compilation di M2O. E nei negozi di dischi. E in tutte le edicole. A 9,90€. Mixa and selecta by Provenzano DJ. So true. Veloce. Ciao ragazzi, sono Alex, voglio salutare tutta la tribù di Campagnano. Ciao! Ciao, sono la ragazza di Chisignano! Ciao, sono Anna! Ciao, sono Lorenzo, voglio dire che siete bellissimi! E me ne attiamo! 800-626-M2O. Amico, hai una pessima cera quest'oggi. Non me lo dire. Sembra di stare all'inferno, mi sento le vampate. Ma allora fatti un Red Bull, stimola corpo e mente. Red Bull, eh? Ah, diabolicamente buono! Oh, dimenticavo, ha effetti collaterali. Ali, ali, candide ali piumate, nella mia posizione! Red Bull ti mette le ali! M2O dal vivo! Out of mind. Tribes. Real Trust e Roberto Molinaro per sabato pomeriggio 4 marzo hanno selezionato Discoteca Vanilla, Genova. E sabato sera, Discoteca Taverna 04, Lamporecchio, Pistoia. M2O dal vivo! Stardust e Paolo Bolognesi per venerdì 3 marzo hanno selezionato Discoteca Seler, Bari. E per sabato 4 marzo, Discoteca Replay, Foggia. M2O dal vivo! È il programma col cuore di un bambino. È il cammino di Gigi D'Agostino. Chi viaggia poco resterà piccino. Il cammino di Gigi D'Agostino. La camminata quotidiana. Un po' sta musica. Musica lento, violento. Profonda. Musica lento, violento. con te, qui, qui, qui, qui, con te. Stai ascoltando Más Fuerte, Uomo Suono. Piano ci porta lontano. Lontano, lontano. Ogni giorno ci gira intorno. Ci gira intorno. Questo è il cammino. Questo è un buongiorno. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il disco anziano di oggi è. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt. Thank you.